La strada è abbastanza stretta e non è certamente semplice. Naturalmente bisognerà capire intanto cosa intenderà fare l'Unione Europea e poi di conseguenza questo come anche ricadrà sui singoli paesi. Pensiamo ad esempio al tema di possibili controdazi. L'Unione Europea è l'unica in questo caso che è delegata, per così dire, a poterle eventualmente imporre, perché appunto materia comunitaria, controdazi su cui molti paesi sono perplessi, perché chiaramente essendo anche importatori di materie prime comporterebbero un ulteriore aggravio dei costi, ad esempio per le imprese che necessitano di acciaio e di alluminio e che magari già lo importano dagli Stati Uniti. Quindi questo è un primo tema delicato che potrebbe avere ricadute sullo stesso continente che mette i controdazi. La seconda questione è quella che al momento sembra la possibile strada che il governo intende percorrere, che è quella di andarne a parlare direttamente con Trump e con gli Stati Uniti, al di là di quello che poi deciderà l'Unione Europea. Qui ci sono diverse questioni in gioco che cambiano anche a seconda del prodotto di cui parliamo, perché l'Italia negli Stati Uniti esporta, noi siamo abituati a ragionare soprattutto sull'agroalimentare, ma una grossa fetta delle esportazioni sono quelle, ad esempio, dei beni intermedi, cioè dei macchinari che poi vengono utilizzati nelle industrie e anche del settore farmaceutico. I rappresentanti del settore farmaceutico per ora si sono detti tranquilli, per i macchinari potrebbe essere già un problema, perché qui inizia ad aprirsi una questione, ovvero dell'economia italiana che è fondata sostanzialmente sulle esportazioni, quindi sui bassi salari per avere delle esportazioni competitive e che chiaramente da un calo di esportazione o dal dover aumentare il prezzo finale di vendita a causa dei dazi potrebbe naturalmente avere dei problemi, dei contraccolpi, della ragione per cui ad esempio tutto il nord-est ma anche il nord-ovest sono molto preoccupati e stanno facendo pressione attraverso le regioni sul governo per cercare di capire come intenderà muoversi, creando anche un tema politico, perché le regioni del nord, lo sappiamo, sono governate dalla Lega e Salvini in questo momento pare l'unico politico italiano che tifa dazi, quindi prende una questione nel suo stesso partito e anche nella sua maggioranza con i suoi presidenti di regione che gli danno decisamente contro. L'altro tema è quello dell'agroalimentare e anche qui le questioni però sono abbastanza diverse a seconda del prodotto di cui andiamo a parlare. Pensiamo ad esempio al vino. L'Italia esporta ampie quantità di vini negli Stati Uniti. Molti sono vini di alta gamma, pensiamo ad esempio a grandi marchi come possono essere Gaia o Sassicaia, di cui in questo caso un aumento di prezzo considerato il mercato a cui sono rivolti probabilmente non avrà grandi conseguenze né per i produttori né per i consumatori che hanno evidentemente disponibilità per acquistare beni che di fatto sono beni di lusso. Diverso è il discorso per altri due vini invece in cui si esporta in grande quantità, che sono Prosecco e Lambrusco, per restare anche l'Emilia-Romagna, che sono vini destinati ad un mercato anche medio, se non medio-basso, e che in questo caso potrebbero avere seri problemi, considerato che, ad esempio, parlando di un vino come il Prosecco, una buona parte della produzione è destinata proprio alle esportazioni, e qui, ad esempio, appunto, il rischio è più grande. Se pensiamo ad un altro bene, giusto per restare in Emilia-Romagna, come può essere il parmigiano anche qui si colloca già in una fascia di consumo negli Stati Uniti medio-alta, in cui probabilmente l'aumento di prezzo potrebbe essere assorbito dalla disponibilità del consumatore ad acquistarlo. Diverso invece, ad esempio, già il discorso per il grana padano. Ecco, questo ci dà l'idea che a seconda del prodotto lo scenario cambia. Mi sembra di capire che la strategia di Giorgia Meloni sia quella di andare a discutere con il presidente statunitense quali possono essere i margini su determinati prodotti. Credo che per la meccanica di margini ce ne siano ben pochi. Potrebbe essere un aspetto importante quello dell'agroalimentare, anche perché l'agroalimentare è uno dei bacini elettorali più forti e più importanti del governo. Per quanto ci siano degli scricchioli, l'ultimo uscito di Lollobrigida alla Coldiretti, provando a scaricare sull'Unione Europea e sulle questioni legate all'etichettatura, alle regole che comunque non piacciono al sistema agroindustriale italiano, non è andato a finire bene. Si sono già visti i primi screzi sulle strategie del governo. Una domanda ancora più nello specifico, sempre su alcuni tasselli di quelli che potrebbero essere soluzioni. Dicevamo, su alcuni prodotti è difficile immaginare anche altri mercati, anche per una questione di disponibilità economica, appunto quelli anche dei beni di lusso. È difficile, ad esempio, andare, che ne so, in Asia a trovare la la stessa capacità di spesa degli Stati Uniti. Un'altra possibile strategia è anche il riassorbimento della domanda interna, di parte almeno di questi prodotti. È possibile in Italia? Allargherei il discorso anche all'Europa. Questo, mi pare, allo stato attuale potrebbe essere una strategia da perseguire, ma non mi pare che le attuali politiche economiche dell'Unione Europea vadano in questa direzione. È chiaro che al di là delle quantità di beni prodotti, la produzione attuale di parmigiano, giusto per restare all'esempio, oppure anche di beni intermedi, non può allo stato attuale fisicamente essere riassorbita dal sistema produttivo italiano così come dai consumatori. Questo è già un primo tema, quindi c'è anche, come dire, un problema di capacità fisica del mercato di riassorbimento. Il secondo è quello che riguarda l'Europa e l'Italia, con politiche che erano da anni di moderazione salariale, che in particolare nel nostro paese, gli ultimi dati Istat proprio di venerdì mostrano come il mercato interno sia completamente fermo. L'inflazione ha fatto aumentare i prezzi, ha comportato comunque un aumento dei beni in termini di valore da parte dei consumatori italiani, ma non in termini di volume. Per dire in altri termini, spendiamo di più per comprare di meno, e quindi anche da questo punto di vista è abbastanza evidente che il combinato disposto di inflazione e di bassi salari renda di fatto impossibile allo stato attuale un riassorbimento sul mercato interno. Certo, bisognerebbe, come dire, fare politica industriale di espansione produttiva tale per cui ci siano fabbriche che abbiano bisogno di beni intermedi, e di espansione salariale tale che ci sia una disponibilità da parte di lavoratori, lavoratrici, dei consumatori ad avere maggiore capacità di spesa. Ad oggi questo non mi pare sia nell'orizzonte, anzi temo che si ragionerà semmai su mantenere attuale la situazione così com'è, sperando magari di esportare qualcosina di più in Europa. Pensiamo ad esempio al mercato tedesco, che ha tutto l'interesse al fatto che in Italia vengano mantenuti dei salari bassi, perché noi siamo un subfornitore della Germania, siamo per la Germania alla stregua di un paese dell'Europa dell'Est, dove di fatto si delocalizzano delle produzioni perché costano di meno, viste le forti differenze salariali tra Italia e Germania. Per cui mi sembra che allo stato attuale questa, che sarebbe una logica evidentemente da percorrere non solo per fare fronte ai dazi, decisamente non sia nell'orizzonte delle politiche economiche del governo, ma nemmeno dell'Unione Europea.